Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna e naturalmente potete ascoltarci anche tramite il web con l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it appunto, scusate il gioco di parole. Mercoledì 10.30 del mattino è l'ora di Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. Città Fujiko Live Club che inizia praticamente sempre in ogni trasmissione con una novità e oggi ne abbiamo una veramente succulenta da parte del top, oserei dire. Non è Bruce Springsteen stavolta, ma è la band che è considerata la più grande band di rock and roll del mondo. Ed è naturalmente, sto parlando dei Rolling Stones, non credo che abbiano bisogno di presentazioni, dirò solamente che sono attivi dal 1962, scusate se è poco, e sono ancora in giro perché hanno iniziato da poco un tour americano e quindi sono veramente molto longevi. Sono uscite due cose dal vivo dei Rolling Stones ultimamente, anzi direi una e mezzo, perché l'ultimo album in studio, che si chiama Acne Diamonds, è stato pubblicato in due versioni, una con il disco in studio secco, bresco come si suol dire, cioè solamente il disco in studio, e poi una versione che si chiama Acne Diamonds Live, che comprende oltre al dischetto in studio anche una serie di sette brani registrati dal vivo in un piccolissimo locale di New York che sono compresi nel secondo dischetto, quindi un doppio e un singolo a seconda di quello che preferite avere nella vostra collezione. Qualche tempo dopo invece, qualche settimana fa, è stato pubblicato un documento di archivio, perché l'album ultimamente i Rolling Stones hanno pubblicato parecchie cose d'archivio. Questo che ci andiamo ad ascoltare, che vi propongo quest'oggi, è un concerto che è stato registrato il 4 novembre del 2002 ed è un concerto che è stato registrato a Los Angeles in un locale che si chiama Wiltern, il Wiltern Theater. È un doppio dischetto molto molto bello, fra parentesi sono anche cose molto particolari fra quelle che ci andremo ad ascoltare, e che rappresenta appieno quello che sono i Rolling Stones. Secondo me stanno tirando un po' troppo la corda, nel senso che sono diventati un po' non dico la caricatura, ma sicuramente una fotocopia sbiadita di quelli che erano i veri Rolling Stones, ma questa è un'opinione molto personale. Rimangono sempre naturalmente una grande band, su questo non ci piove, e adesso ce lo dimostrano con questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Dance Part 1. Loro sono Rolling Stones Live at the Wiltern. Let's go! E questi erano i Rolling Stones con questo brano che si chiama Dance Part 1. Rolling Stones, ai quali piace ogni tanto esulare dalle grandi arene, dai grandi stadi, da 50, 60, non so quante migliaia di posti, e suonare in locali piccoli. Infatti anche il disco dal vivo che vi dicevo prima, incluso Hackney Diamonds Live, è registrato in un piccolissimo locale di New York City. Questo invece è stato registrato in un teatro, cosa abbastanza anomala appunto per i Rolling Stones abituati alle grandi arene. È un locale da 1850 posti, si chiama Wittern Theater, ed è sito sul Wilshire Boulevard, al confine di quello che viene denominata Korean Town. Los Angeles è praticamente un agglomerato di tantissime città diverse, e molte di queste sono caratterizzate da etnie varie. C'è naturalmente Little Italy, c'è Chinatown e c'è anche Koreantown, la città, chiamiamola così, dei coreani. E al confine con questa città, sul Wilshire Boulevard appunto, c'è il Wittern Theater, che fa parte di un edificio che si chiama Palisade Building, che è un edificio Art Deco, che è stato anche, è tuttora, uno degli edifici storici della città di Los Angeles. Immaginate che è stato fatto nel 1931, quindi non è che sia vecchissimo. Casa mia è più o meno di quel periodo lì. E niente, avrete già capito da questa piccola introduzione che la prima parte della trasmissione di oggi, 8 maggio 2024, è dedicata a questo teatro e a registrazioni effettuate in questo teatro. E dopo i famosissimi Rolling Stones, iniziamo questa piccola rassegna con una band che dalle nostre parti, credo almeno, non è molto conosciuta. Vengono da Stillwater, Oklahoma, sono attivi dal 1999, si chiamano All American Rejects. Hanno avuto tantissimo successo negli Stati Uniti, soprattutto presso un pubblico giovanile, pubblico dei college, e sono tuttora vivi e vegeti e suonano tuttora in giro per gli Stati Uniti. Qui abbiamo un singolo che comprende quello che è il loro maggior successo, si chiama Dirty Little Secret, è stato registrato appunto al Wilton Theater di Los Angeles il 2 dicembre del 2005 e ce lo andiamo subito ad ascoltare. Just another regret. Thank you. Sempre molto riconoscibile la voce di Perry Farrell, il cantante dei Jane's Addiction, grandissima band che fa veramente faville tuttora, perché dopo qualche scioglimento sortito qui e là, loro sono in giro dal 1985, ma vengono da Los Angeles, ma come dicevano ho avuto diversi break nella loro carriera, però poi ultimamente sono tornati insieme. Fra le altre cose c'è da dire che, oltre ad essere stata una delle prime band alternative americane a avere un grande successo negli Stati Uniti negli anni 90, sono coloro, soprattutto la figura di Perry Farrell, che hanno fondato e iniziato il Lollapalooza Festival, un festival che è iniziato nel 1991 e che all'inizio per molti anni è stato itinerante, cioè c'erano diversi concerti in diverse città, e invece dal 2005 è diventato fisso e di casa a Los Angeles. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama The Price I Pay e fa parte di un singolo di diversi anni fa oramai, che ha come titolo di punta, diciamo, in studio Just Because. Il tutto è stato registrato al Wiltern, naturalmente, l'ultimo dell'anno, del 2002. Cambiamo un po' le acque forse, andiamo con una band che si chiama CPR, detta all'italiana CPR, dove C sta per Crosby, detto anche David, P sta per Power, detto anche Jeff, e R sta per Raymond, detto anche John. Sono i tre membri ufficiali di questa band, che appunto vede David Crosby alla guida e Jeff Power, che è un chitarrista che ha suonato con lui tantissimo tempo, e Raymond, che invece è il suo figlio, che però lui ha conosciuto e ha saputo di averlo, credo, molto tempo dopo la nascita appunto di Raymond. Quando si sono conosciuti hanno capito di avere delle affinità elettive, guarda caso, e hanno deciso di mettere su insieme questa band, che però poi a dire il vero non è stata unita per molto tempo. Hanno fatto due album live, fra cui uno dal vivo appunto al Wiltern, che si chiama Live at the Wiltern, che comprende un concerto che è stato registrato il 15 novembre del 1998 e che si conclude con questo splendido pezzo, per me uno dei più bei pezzi in assoluto che abbia mai ascoltato, e ne ho ascoltati parecchi, ve l'assicuro. Si chiama Almost Cut My Hair, CPR. Almost cut my hair. Happened just the other day. It's getting kind of long, yeah. I could have said it was in my way. Thank you. is my paranoia. Like looking in my mirror and seeing a litter, Dallas police car. When I finally get myself together, yeah, gonna get down with some of this sweet southern weather. I'm going to find a space inside a land, separate the wheat from the chaff. As I feel, we'll be right back. dance, put your hands in the air. Questa è l'unica cosa proveniente dalle isole britanniche che ci ascolteremo in questa prima parte della trasmissione, e da un acronimo che abbiamo lasciato, CPR, siamo arrivati a un altro acronimo che si chiama JTR. JTR sta per guitar, perché i titolari, i protagonisti di questo supergruppo, che è stato attivo dal 1985 al 1987, sono Steve Hackett, chitarrista eccelso from Genesis, e Stevie Howe, chitarrista altrettanto eccelso from Yes. I due misero insieme questo gruppo per un album solo, chiaramente due personalità di questo tipo, così forti, non potevano stare insieme molto di più, e fecero un album in studio e questo album live, che è per la serie King Biscuit Flower Hour, del quale vi ho già parlato tante volte. E chiaramente durante il concerto c'erano pezzi sia dei Genesis che degli Yes, e questo è appunto, ma non ha bisogno di presentazioni, spero, si chiama I Know What I Like, uno dei grandi classici dei Genesis, secondo me completamente rovinato dal cantante della band, che che non so bene perché fu scelto, in quanto secondo me è più un cantante da heavy metal che da progressive, ma questo è un'opinione molto personale. Piccolo inciso, la copertina di questo album, la copertina originale di questo CD, vede una foto rovesciata, cioè sia Stevie Hackett che Stevie Howe hanno, sono mancini, e io credo veramente che loro non siano mancini neanche quando mangiano il padding. Comunque, questa era I Know What I Like. Washington State, lo stato di Washington, quello che è dall'altra parte rispetto a Washington città, parlo degli Stati Uniti naturalmente, è uno stato molto attivo musicalmente parlando, lo stato di Seattle tanto per intenderci, e nel 1997 vide la nascita di una band dal nome un po' particolare, si chiama Death Cab for Cutie, una storia che riguarda una loro amica che morì in un viaggio in taxi naturalmente, anche se poi la canzone non la scrissero loro ma la scrisse qualcun altro. Comunque il progetto partì appunto nel 1997 dalla mente di Ben Gibbard, che è un cantante e tastierista e chitarrista, e contrariamente a quanto viene di solito, in questo caso da un progetto solista arrivò a diventare una vera e propria band. La cosa che ci andiamo ad ascoltare è un extended play che si chiama The John Bird EP, appunto extended play, che è stato chiamato così perché John Bird era il loro ingegnere del suono nel corso del tour del 2004. È stato registrato in diverse località, eventualmente in diverse serate. Questa che ci andiamo ad ascoltare è stata registrata al Winter Theater di Los Angeles il 21 maggio 2004 e si chiama We Laugh Indoors. Loro sono Death Cab for Cutie. We'll be right back. days get darker and we waste. Thank you. band molto particolare, ma probabilmente non molto adatto alle 11:23, 19 secondi del mattino. Comunque mi piaceva farvela ascoltare, perché credo che in radio non si ascoltino molto i Mars Volta, qualsiasi radio che voi ascoltiate. Loro vengono da El Paso, il Paso Texas naturalmente, si sono formati nel 2001 e nel 2012 si sono sciolti, ma poi sono riformati nel 2019 fino adesso. Omar Rodriguez Lopez, il chitarrista, e Cedric Bixler Zavala, il cantante, sono gli unici due membri costantemente nel line-up, che prima insieme erano un'altra ottima band che si chiamava AD Drive-In. Diciamo molto particolare, ma molto molto intrigante secondo me. Scape Dates, l'album che ci siamo ascoltati, è stato registrato in diverse località, ma questa Haruspex è stata registrata al Winter Theater di Los Angeles il 12 di maggio del 2004. A concludere questa piccola rassegna di brani registrati al Winter Theater di Los Angeles, arrivano i Soundgarden. Ci sarebbero ancora tantissime cose: Black Crowes, Lou Reed, i Flogging Molly, Eddie Brickell, Tom Waits, però voglio finire con questi Soundgarden per darvi la dritta che, se volete capire, vedere com'è fatto il Winter Theater, guardate la copertina di questo album, bellissima copertina fra parentesi, e ne avrete non un'idea, vedrete proprio com'è. Infatti è una copertina che è fotografa quello che è il Winston Theater, con annessi e connessi anche l'edificio completo. Dicevo, questi Soundgarden credo anche loro non abbiano bisogno di presentazioni, vengono da Seattle e ultimamente stanno avendo un po' di problemi legali fra la vedova di Chris Cornell e il resto della band, per problemi di soldi naturalmente, ma a noi questo non interessa. A noi interessa che l'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live from Artist Dan, è il secondo album live della loro discografia ed è stato pubblicato postumo dopo la morte appunto di Chris Cornell e dopo lo scioglimento relativo del gruppo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è dedicato a un grandissimo giocatore di baseball del passato, si chiamava Ty Cobb, come è appunto il brano che ci andiamo ad ascoltare, registrato il 17 di febbraio del 2015, Soundgarden. Got it. Seconda parte di Città Fujiko di oggi, 8 maggio 2024, seconda parte che è iniziata naturalmente con la novità che vi propongo quest'oggi, l'ultima uscita discografica live dei Rolling Stones, si chiama Live the Wiltern ed è un doppio dischetto molto accattivante, come del resto quasi tutti gli album live dei Rolling Stones, ce ne sono alcuni che lasciano un po' il tempo che trova, comunque che trovano. Comunque il brano che ci siamo ascoltati si chiama Beach. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, tantissime cose anche oggi, e ancora una volta il criterio è sempre quello, un brano per ogni decade. Iniziamo dal 1974 insieme a Motley Hoople, grandissima band che è stata attiva dal 1969 al 1980, poi nel corso degli anni si è riunita sporadicamente diverse volte. Ian Hunter, che era un po' il leader, lasciò la band nel 74, che da allora cambiò... Scusatemi, cambiò, dicevo, diverse formazioni e diverse denominazioni, da Mott a British Lions. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama semplicemente Live e uscì come long play in singolo nel novembre del 1974. Una facciata era registrata all'Hammersmith Odeon di Londra nel dicembre del 73, l'altra facciata, che è quella che interessa a noi, è stata registrata all'Uris Theater Broadway, New York City, l'8 maggio del 1974. In occasione del 30° anniversario è stata pubblicata una nuova edizione in doppio CD, in questo caso abbiamo un CD dedicato all'Hammersmith Odeon e un CD dedicato all'Uris Theater, che come dicevo è quello che ci interessa e che ci andiamo ad ascoltare subito, quello che fu il grande successo dei Motley Hoople, un brano che fu regalato fra virgolette loro da David Bowie, si chiama naturalmente All the Young Dudes. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. I'm wearing stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars. From his studies, a funky little boat race. The television lad is crazy, sighing with juvenile delinquent breath. Ci sono 13 pezzi di differenza fra l'edizione originale in long play e questa del trentennale in doppio CD. Alcuni titoli sono uguali, ma chiaramente le versioni sono diverse, e uno di questi appunto è, non poteva essere altrimenti, All the Young Dudes, questo super classico uscito dalla penna di David Bowie ma originariamente interpretato dai Moody Opel, anche in questa occasione al Lurie Theater di Broadway, New York City, l'8 maggio del 1974. Dieci anni dopo, una delle mie band preferite era in concerto in quel di Londra, anche questo all'Hammersmith Odeon, e guarda caso, però lì fu una serie di serate che furono immortalate nel loro primo album live, che si chiama semplicemente Concert. Loro naturalmente sono Cure, che sono veramente una band super super super. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, registrato appunto l'8 maggio del 1984, quindi fate i conti voi tantissimi anni fa, è uno dei grandi brani che sono stati scritti da Robert Smith. Si chiama 100 Years, loro sono Cure. We'll be right back. Hammersmith Odeon di Londra, siamo all'8 maggio del 1984, Grandi Cure, il brano si chiama 100 Years, uno dei classici della loro prima parte della produzione. Questo concert è uno di quei dischetti, di quegli album, per meglio dire, perché questo che avete ascoltato è il vinile, e che secondo me dovrebbe essere ripubblicato magari in versione doppia o tripla con un sacco di pezzi aggiunti. Comunque, questa è un'opinione personale di inguaribile amante dei Cure e inguaribile amante della musica dal vivo. Andiamo avanti di 9 anni, 1993, siamo in compagnia di un'altra grande band, un'altra delle mie preferite, con la quale vi tedio spesso e volentieri, ma vorrei che imparaste ad apprezzarla, perché i Fish è veramente una grandissima band. Loro vengono da Burlington nel Vermont e sono attivi dal 1983, con diverse interruzioni per dare modo ai quattro componenti della band di seguire le proprie attività soliste. Hanno fatto un sacco di pubblicazioni dal vivo, fra cui questa serie che si chiama Live Downloads, che in realtà poi sono CD, e questo in particolare è triplo ed è stato registrato a UNH Fieldhouse di Durham nel New Hampshire, Stati Uniti naturalmente, nel 1993. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è il bis, l'encore di quella serata, si chiama AC/DC Bag. Peace. Credo proprio che questo pezzo non abbia bisogno di presentazioni, posso solamente dire che è tratto dalla colonna sonora, chiamiamo così, dal soundtrack di un video. Il video uscì nel novembre del 2003 e era una data del Growing Up Tour, una data fra parentesi a noi molto vicina visto che era a Milano, e uscì appunto il video nel 2003 e poi nel 2020 invece è uscito sotto forma di tre long play pesantissimi fra parentesi in vinile, ed è veramente una cosa meritevole. Tre album, ripeto, in vinile assolutamente fantastici. È una cosa un po' non facilissima da trovare, ma ne vale veramente la pena. Registrato, come dicevo, al Fila Forum di Milano l'8 maggio del 2003. Il brano, per coloro che fossero vissuti in una caverna fino a qualche minuto fa, si chiama Sledgehammer. E dopo un personaggio così famoso, invece due personaggi che non sono molto conosciuti dalle nostre parti, fra parentesi due grandi chitarristi, e negli ultimi anni, negli ultimi decenni sarebbe meglio dire, sono venute alla ribalta diverse ragazze che suonano la chitarra in un modo assolutamente super, ed è veramente, potrei citare Anna Popovic, potrei citare Susan Tedeschi, potrei citarne tante. Abbiamo in scena qui invece una ragazza che si chiama Michelle Malone, viene da Atlanta, Georgia, e il suo primo album è stato pubblicato nel 1988. Ha fatto diversi album live, magari con diverse band di supporto, ricordo solamente i Drag the River delle Band du Soleil, e in questo caso invece la band si chiama Michelle Malone Band, Banned. E l'album si chiama invece Morning in the Attic, è stato registrato a Ladies Attic, appunto, a Decatur in Georgia, che incidentalmente, fra virgolette e fra parentesi, è la città natale di Malcolm Stipe dei XRAM. Ce l'andiamo ad ascoltare. Il brano che ho scelto per voi si chiama Teen Lament, lei si chiama Michelle Malone. How are y'all doing? Having a little fun tonight. It's a little loosey-goosey. I hope you don't mind. I was holding an invitation to meet some danger. Around the corner from an evil love affair. Girl, get ready to be moving. Cause I felt like I weren't going anywhere. I took a walk. Pavement, and I say what I say, y'all. another birthday, yeah. Oh, I get to spend some more time with you. And Johnny D and Phil Skipper too, Big Red and Kato Heron, well, and Tim, he's Tim-tastic. He's a temptation. He's 10 pounds of fun. This shit up. You'll be my friend. You know exactly what he can do. Maggio 2010, Michel Malone Band, scritto Banned, non come band, inteso in senso di banda, dal vivo Ladies Act di Decatur in Georgia, e l'album appunto non per questo proprio si chiama Morning at Attic. Il brano che ci siamo ascoltati invece era Thin Lament, che ha dimostrato che Michel Malone, oltre che essere un'ottima chitarrista, è anche un'ottima cantante. A concludere Città Fuji con la F Club di oggi arriva un altro chitarrista molto molto bravo che si chiama Alastair Greeny. Lui viene da Santa Barbara in California ed è attivo dagli anni 90. Ha fatto 3 album live che sono tutti molto interessanti. Questo è l'ultimo, si chiama Alive in the New World. E prima però di concludere, di farvelo ascoltare, devo naturalmente ricordarvi che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di tutti i generi e di tutte le epoche, ogni mercoledì dalle 10.30 naturalmente sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Dicevo, Alastair Greeny, che ha registrato questo album al City Winery di Chicago. City Winery è una catena un po' sparsa in tutti gli Stati Uniti, Chicago, Illinois naturalmente, l'8 maggio del 2021, quindi direi che è recentissima. Il pezzo che ho scelto per voi è un pezzo che si chiama Lies and Fear, lo ripeto, lui si chiama Alastair Greeny, Alive in the New World l'album e Lies and Fear il brano che conclude Città Fujiko, conclude Città Fujiko Live Club di oggi. Ciao a tutti da Nevio. rising fear.